buonasera, bentornati. Siamo in diretta su Radio Wombat, la trasmissione La Revancia, la vostra rivendicazione, la vostra vendetta, tutto sul punk. Oggi parliamo di un'etichetta discografica, la quale ha fatto uscire tra l'altro anche il disco in cui è presente la canzone che è la nostra sigla, il cui disco si chiama Come la trasmissione. Parliamo della Slap Ham Records, un'etichetta californiana creata dal bassista degli Spaz, degli Infest, nonché chitarrista, primo chitarrista dei No Use for a Name, insomma un personaggio che ha suonato in mille e più gruppi, in tantissimissimissimi gruppi, ha fondato anche questa etichetta la Slap Ham Records, che è un'etichetta californiana, che ha fatto uscire miriade di dischi, vinili, 7 pollici, 12 pollici, CD, che annovera tra i propri artisti gente del calibro anche dei Melvins, dei Crossed Out, degli Head God, dei Fu Manchu, Fuck on the Beach, gli El Nation, Lack of Interest, Man is the Bastard, Mel Banana, Melvins, Neanderthal, insomma una miriade di gruppi. E iniziamo a ascoltarci qualcosa, dai. Iniziamo da una delle prime uscite di questa etichetta, precisamente la seconda. Nel 1990 Chris Dodge fece uscire un 8 pollici flexi addirittura, in cui all'interno si trovavano due canzoni, due singoli dei Melvins. Ci andiamo ad ascoltare uno dei due singoli, Bullhead, Melvins. We'll be right back. erano i Melvin con Your Blessed, e adesso andiamo avanti, passiamo un'altra uscita sempre della Slap Ham, appunto questo sarà uno speciale sull'etichetta californiana attiva dal 1990 ai primi 2000. Chris Doggia ha smesso di far uscire dischi intorno ai primi 2000, 2002-2003. Passiamo al secondo pezzo, è la terza uscita di questa etichetta, un gruppo dove militava anche Chris Doggia, diventato famoso poi successivo, molto più famoso dell'inizio ovviamente, anche grazie al carisma e alla bravura di Sonny Sly, deceduto pochi anni fa. Il gruppo in questione, come alcuni di voi sanno, spero tutti, sono i No Use For A Name. Insomma, Chris Doggia fece uscire il primo sette pollici del suo gruppo. Questa canzone si chiama It Won't Happen Again, il disco è Let Them Out del 1990. Vamonos. I Questi erano i No Use for a Name. Bene, adesso abbiamo sentito le prime due pezzi di due gruppi che poi hanno avuto due gruppi che facevano due generi musicali che poi non sono stati tanto spinti dalla Slap M, che invece si è dedicata a sonorità più vicine alla velocità, diciamo, al power violence, al trashcore e non solo. Infatti adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra uscita, The Neanderthal. Undisputed Fighting Music è il nome del 7 pollici e la canzone si chiama Kill, Eat and Breathe. Questi erano i Neanderthal e questa sarà più o meno la linea di quasi tutte le uscite della Slap M di Chris Dodge. Appunto, sono sonorità violente, qualità lo-fi e non solo. Però adesso parliamo della sesta uscita, un 7 pollici dei Fu Manchu, stampato in 1000 copie. Fu Manchu poi hanno continuato la loro carriera uscendo per altre etichette. Adesso ci sentiamo Keep Between Trees dei Fu Manchu, che ovviamente non fanno power violence, da come potete ascoltare. Questi erano i Fu Manchu e adesso andiamo avanti. D'ora in avanti ci saranno, ve lo giuro, solamente canzoni veloci, di massimo un minuto e mezzo, anche meno. È finito il primo periodo delle uscite, anzi no, ci sarà un'altra canzone lenta, però comunque insomma queste erano le prime uscite. Adesso passiamo a ciò che ha contraddistinto, diciamo, la Slap AM Records da tante altre etichette, cioè la diffusione, come appunto si dicevo in precedenza, del power violence di tantissimi gruppi, fra cui anche il prossimo che metterò, che sono i Capitalist Casualties, con cui ho avuto la fortuna di suonare con il batterista loro in un suo progetto Noise a Parigi anni fa. Non mi ascolterà mai, non so manco come si chiama, comunque gli volevo dire che quel gruppo faceva abbastanza cagare, era meglio se continuava con i Capitalist Casualties. Però andiamo avanti e niente, spendiamo due parole su un festival che Chris Dodge organizzava ogni anno, che si chiamava Fiesta Grande, che è stato organizzato dal 92 fino al 2000 al 924 di Gilman Street ad Oakland, un locale storico, un locale, come ci hanno detto in America, all age, cioè in cui potevano entrare tutti, non vendevano alcol e quindi poteva entrare anche i maggiorenni. Questo festival ha visto la partecipazione di molti gruppi e ha dato il là, diciamo, alla nascita di un altro festival che si chiamava Super Sabato Gigante, organizzato da Max Ward, il batterista degli Spaz, il quale suonava con Chris Dodge, appunto, negli Spaz, sempre dove il nostro amato Dodge suonava il basso e cantava. Però adesso torniamo indietro. Torniamo al 92, quando è uscito il disco Disassembly Line dei Capitalist Casualties, e questa canzone si chiama Downtown. In relazione a questi erano i Capitalist Casualties, e in relazione al discorso che facevo prima, appunto, su la Six Week di Max Ward e la Slap AM di Chris Dodge, infatti questo disco qui è stato ristampato poi successivamente negli anni 2000 da Max Ward con la sua Six Weeks. Bene, adesso rimaniamo nello stesso ambito e nello stesso anno. Parliamo dei No Comment, che nel 90 fecero uscire il disco Downsided, e questa canzone qui è la title track, Downsided, 50 secondi di violence. Let's go! questo era il no comment. La violenza, d'ora in avanti, il potere e violenza, d'ora in avanti la farà da padrone in questa puntata della Revancia. Ricordiamo dove potete trovarci. Potete trovarci non solo alla Revancia, ma tutte le trasmissioni di Radio Wombat sul sito che è wombat.noblogs.org, sul Twitter che è twitter.com/radiowombatfi, se no sulla pagina Facebook, ovviamente facebook.com/radio-wombat-firenze, o se no, se volete mandarci una mail, la potete mandare a posta@wombat.net. Bene, andando avanti, troviamo uno split, uno dei tantissimi split che usciranno per la Slapham Records. È uno split tra i Crossed Out e Man is the Bastard. Secondo me, uno degli split più belli e più seminali del Power Violence. Però prima di questo split volevo dire che è la 14ª uscita della Slapham. Ho qui la pagina Wikipedia che mi dice tutto, perché queste cose non me le ricorderei mai e poi mai. Chris Dodge ha fatto uscire un altro 7 pollici dei Melvins e poi una compilation, un 12 pollici, cioè la prima di tantissime compilation che si chiama Sons of Blag, la quale conteneva all'interno tantissimi pezzi di tantissimi gruppi, e il nostro amato Chris ne ha fatto uscire diverse di queste compilation, tutte le volte con gruppi differenti, tra cui alcune addirittura con i Cripple Bastard o altri gruppi che poi sono usciti per altre etichette come Charles Bronson, i Los Crudos, eccetera eccetera. Ma ora ci spostiamo nel marciume dei Crossed Out e Man is the Bastard, sentendoci due pezzi di fila come appunto uno split. I primi sono i Man is the Bastard con Instantly Bent e i secondi sono i Crossed Out con Scapegoat. Go! Man is the Bastard Crossed Out, uno degli split più belli, o perlomeno che a me piace di più, dell'etichetta, ma non solo. Bene, andiamo avanti e parliamo di un altro split tra gli MDC e i Capitalist Casualties. Questo split si chiama Liberty Gone, è uno split tra i pionieri del punk e i pionieri del power violence, uno split benefit per l'organizzazione Food Not Bombs, per il cui capo fu arrestato in quegli anni, perché l'organizzazione, che esiste tuttora in diverse parti del mondo, ma nata ovviamente, come potete immaginare, in California, la quale distribuiva cibo per gli homeless senza casa, il capo è stato arrestato e la scena punk, come al solito, si è mossa nel modo giusto, si è mossa cercando di aiutare. E appunto Chris Dodge fece uscire questo disco. Da questo disco è tratta questa canzone, si chiama Bombs Not Food, degli MDC, che ora ci andremo ad ascoltare. Vai. hall won't give this one. The homeless war in the floor, war on drugs will rip the drug. We got clubs, we got guns, less handguns for everyone. Switch the wagon, we'll haul you away. Homeless all go hungry today. We want bombs, not food, trafficked people, you'll get screwed. We want bombs, not food, trafficked people, you'll get screwed. We want bombs, not food, trafficked people, you'll get screwed. We want bombs, not food, trafficked people, you'll get screwed. We don't need to eat, but that's a gift for living on the street. I can see you sick and lean, you want the job, join the Marines. We want bombs, not food, trafficking people, you'll get screwed. We want bombs, not food, trafficking people, you'll get screwed. We want bombs, not food, trafficking people, you'll get screwed. I said we want bombs, not food, trafficking people, you'll get screwed. Put down that bag, put your hands on top of your head. Stop stirring stew, drop that way. We're not bombs, we won't be stopped by a bunch of heartless fascist cops. 14 years we fought this fight. Lose our privilege, lose our right. Jordan and his team of goons, lose this war, they'll lose it soon. People won't believe their lies, the lock of his on a thing, don't die. Food not bombs, food not bombs, food not bombs, food not bombs. Food not bombs. Food not bombs. Questi erano gli MDC. Adesso ci spostiamo in sonorità più lente. Ci spostiamo sugli Head God. Sono un gruppo di New Orleans che ha fatto la storia dello sludge. Un loro 7 pollici split con i 13 è uscito sulla Slap AM nel 1995. Mentre il disco di prima del 94, questo disco conteneva una canzone che poi è diventata anche un po' uno slogan degli Head God. Questa canzone si chiama Southern Discomfort. Erano nel 1995 e loro sono gli Head God. Vai! We'll be right back. Ringrazio Chris Dodge per aver prodotto questo 7 pollici degli Head God, che mi ha permesso, grazie alla sua lunga durata, questo pezzo qui mi ha permesso di andare in bagno, perché se il pezzo durava un minuto mi sarei pisciato addosso. Ma ora andiamo avanti, rimaniamo sempre nello stesso anno e parliamo di un altro gran gruppo, i Plutocracy, che hanno fatto uscire questo disco che si chiama Dunk Stats, e ci andiamo ad ascoltare una loro canzone tratta da questo disco che si chiama Jailed, e dallo sludge andiamo diretti al grind. Plutocracy, Jailed. Prisons are not rehabilitation centers, they are no more than concentration camps. So we must free, we consider all prisoners political prisoners. Questi erano i Plutocracy, questa era Jailed del 1994, ma adesso andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo all'uscita numero 29 del 97. Da quest'anni qui in avanti Chris Dodge ha iniziato a far uscire gruppi non propriamente power violence, ma più dediti al trashcore, all'hardcore veloce, eccetera, eccetera, e non solo, anche al grind. Infatti nel 97 esce un 7 pollici che si chiama Enslaved dei Phobia, un disco interamente contro il cattolicesimo. Questa canzone si chiama Infant Suffering. Go Phobia! I've come here to create a new country for you called Chaos. And a new government called Anarchy. Ah! questo è il grind dei Phobia, questo è Infant Suffering del 1997, ma adesso ci spostiamo nello stesso anno, perché sempre in quest'anno qui ci sono state due gran belle uscite della Slap AM. La prima sono gli El Nation, che produssero un 5 pollici dal titolo At War with Emo. Da un titolo, il titolo è molto accattivante ed è sempre attuale, diciamo così, dai, diciamo che è sempre attuale. Adesso ci ascoltiamo una canzone tratta da questo disco che si chiama Stagnate. Violation, velocissimi come sempre. E quindi, sempre nello stesso anno, Mr. Chris Dodge va a pescare dal cilindro un'uscita di un gruppo assurdo. La pescherà, da dove la pescherà questa uscita? Boh, magari dal suo amore per il noise, da alcune amicizie giapponesi, anche perché farà uscire anche alcuni dischi di gruppi giapponesi. Pesca dal cilindro un 7 pollici dei Melt Banana, che si chiama Elevent, da cui ci andremo ad ascoltare questa canzone. Si chiama Last Clipper, tutto il noise, la velocità e l'assurdità dei Melt Banana. Questi erano i Melt Banana e questa era l'assurdità dei Melt Banana. Ma adesso ci spostiamo in avanti nel tempo e andiamo al 1999, rimaniamo però, ma sì dai, cambiamo, volevo metterne un'altra ma ora metto questa perché mi è venuto in mente e rimaniamo nella stessa nazione. Siamo nel 1999 ed esce un 12 pollici e un CD dei Fuck on the Beach, un gruppo giapponese che si chiama Power Violence Forever, ma prima uscì un altro disco da cui è tratta questa canzone che si chiama Fast Car on the Beach, e questa canzone si chiama Trot or Die. Fuck on the Beach, Giappone, yo! Stop! Questi erano i Fuck on the Beach e siamo a fine. Siamo a fine di questa trasmissione, di questo speciale sulla Slap M Records di Chris Dodge, bassista di gruppi importanti, perlomeno per me, come gli Spaz, come gli Infest. E voi state sentendo La Revancia, una trasmissione che si chiama come un disco degli Spaz, appunto, che è all'interno di Radio Wombat, una radio fiorentina nata da poco, con tantissime trasmissioni. Per vedere e capire e sapere ed ascoltare cosa va in onda, vi consiglio di andare sul sito wombat.noblogs.org, oppure di connettervi a Facebook sulla pagina della radio, che è radio-wombat-firenze, o se volete mandarci una mail, posta@wombat.net. Bene, adesso ci andiamo ad ascoltare l'ultima uscita, perlomeno di quelle che ho selezionato io, della Slap M. E loro sono i Lack of Interest. E questo disco da cui è tratta la canzone, che si chiama Social Inequality, è del 1999, si chiama Trapped Inside. Loro sono i Lack of Interest, io vi saluto, anzi no, vi saluto dopo, vai, Lack of Interest. But you wanna trip your powers and your pretty words. Money's your card, breaking the world. Fly up the money, money with our empire. Bene, questa era l'ultima canzone per oggi. Finiamo questa trasmissione dedicata alla Slap M Records dicendo che il nostro amico Chris Dodge ha fatto uscire 64 uscite di catalogo, più varie rarità, più ristampe future, ristampe di dischi suoi che sono stati fatti nel futuro rispetto a quando sono usciti realmente i dischi. Niente, il tutto spazia dal punk all'hardcore, ma soprattutto al power violence e al grind. Vi ho fatto ascoltare i gruppi seminali del genere, nonché i migliori. Non vi ho fatto ascoltare gli Spaz, perché l'ascoltate sempre all'inizio e alla fine di ogni mia trasmissione. E niente, spendiamo due parole su altri gruppi che sono usciti per la Slap M, tra cui gli Jacobse, i Notgrush, e anche altri dischi di gruppi che vi ho fatto ascoltare, vari dischi degli Spaz, i Crossed Out, tutti i dischi dell'El Nation, dei Fuck on the Beach, due CD de Fobia, e niente, Capitalist Casualties, uno split tra i Despise You e i Suppression, Man is the Bastard a Nastro, insomma, tutta roba di qualità, tutta roba che ha fatto la storia di un certo genere, tutta roba che alcuni di noi, me compreso, ascoltano tuttora con molta gioia nel cuore. Siamo a fine della trasmissione, volevo spendere altrettante parole, forse saranno un po' meno, ma non non è perché sono di minore importanza, anzi, volevo esprimere tutta la mia solidarietà ai 35 inquisiti nell'associazione a delinquere denominata Panico dai nostri amici della questura, che ha portato a 10 misure cautelari per 10 compagni del Panico. Niente, a loro va tutta la mia solidarietà, e volevo salutarli dicendo che sfasciare le vetrine di Casa Pound non è reato. Bene, l'ultima canzone, la sigla finale e anche iniziale, è Mad degli Spaz, dall'album La Revancia. Vi saluto, ci vediamo lunedì, ci sentiamo perché non ci si può vedere, lunedì prossimo. Continuate a restare sintonizzati su Radio Wombat, diretta ai Wombat. Spaz, Mad, La Revancia, Play Fast and Loud.